Personalmente vi dico, io sono un tossico, okay? Come li giro? Shish kebab, è inteso come come i torcioni che si girano in compagnia. X-Tape, mappe, si sbatte, yo. Onestamente non so manco cosa sia quello che c'ho dentro che alimenta questa mia euforia. Follia, chiamala come vuoi, non è solo un joint che mi rende scemo come la pubblicità di Boeing. Simo, AKA mentalità da baretto. Quando arriva il case so già che ci fumiamo mezzetto. Perché fra, è così che va. Fumo canne così grosse che per girarle non bastano le Google Maps. Sono diretto, punto fisso il mio target. Scrivo barre con un fucile nel braccio come barre. Con difetto, faccio discorsi cretini. Tu che pensavi i condomini fossero gondoni per bambini. Ci basta un kick e un clap, è come un trick e track. Scoppietti qui nel club. Mettete a letto i bambini, le tue parole non le accuso come se bevo i crodini. Come li giro? Come li tiro? X-Tape. Mappe, si sbatte. Big col supra, se ti brucia non c'è scusa. Arcade Street Fit Simo It's King, me lo suca, la tua puta è una brava seduta, roba forte non l'hai mai conosciuta. Lo ninjutsu badabam, succhia qua sto fallo di chakra. Tecniche ninja Madara, a casa con numeri ti do il sudoku. Succhiare come il monaco Miroku. Sono a Monaco ma i tuoi amici mi dicono che lo succhi poco. Lo vuoi negro chiamami Popo. Intanto giro il globo come giro un porro. Sono il più bastardo, puoi chiamarmi Ramsey Gordon. Intanto fotto il mondo, sono un vicolo cieco senza ritorno. E schiaffeggio queste cagne come in un porno. Il tuo massimo è fare il guapo ad Albano. Io intanto questi missili li giro come un kebabano. Come li giro? Come li tiro? X-Tape. Mappe, si sbatte. Alle mani, Simo X, Arcade, X-Tape. Svarioni sulla track, tipo con le special K. Tre maiali tipo Bale, ci mangiamo pure lui. Tre bombe di Silver Ray, sono molto compiaciuto. Mi sono evoluto in un minuto, quello che volevo l'ho ottenuto. Sembro ma non sono uno sprovveduto, ad ogni colpo ribattuto. Do il mio contributo alla scena, fino al lavoro compiuto, non sto muto. Ho il fiuto di Pluto per la foglia 7 punte. Sento l'odore e mi voglio farne subito 7 lunghe. Le faccio tipo un braccio, mio cervello non funge. Poveraccio è ridotto uno straccio, non si ricongiunge. La testa più botte che in Tekken, tutto ciò mi mette KO, tipo lo show. You candy can. Ho ascoltato il tuo rap, ho pensato il flowchess, ma io non lo vedo come le mutande di Belen. Shish kebab, come li giro? Shish kebab, come li tiro? X-Tape. Mappe, si sbatte. Vita kebab, 3,50 euro. Ingoiato. Right, mi fa il remix e tutto dance. Ti ricordo che questa strofa l'ho scritta davanti al muro del pianto. RK, Mad Boys, Simo X, Andrew's Right, X, Tape, volume 2. Yo!